non c'è nessun mezzo? Per cambiarlo? Per girarlo? Addolcirlo? Oh, Simone! Simone! Tu sei il più vecchio! Tu sei anche stato podestà a Cuscecchio! C'è una persona sola che ti può consigliare, forse salvare. Chi? Gianni Schicchi! Di Gianni Schicchi, della figliola, non voglio sentirne parlare mai più! E intendi bene! E quindi vieni! Chi? Gianni Schicchi! Chi l'ha chiamato? Io l'ho mandato perché speravo. È proprio il momento, ma quando mi scagli di fare? È proprio il momento, da bella di cicchi, da piedi! Dire soltanto papà, nebbia! Condonati sposare la figlia d'un villano! Una scesa Firenze dal contato! Imparentarsi con la gente nuova! Io non voglio che venga, non voglio! Avete torto, e fine astuto, ogni malizia di letti e codici. Conosce sa, motteggiatore, beffeggiatore, c'è da fare una beffa nuova e rara, e Gianni Schicchi che la prepara. Gli occhi furbi illuminano di viso lo strano viso, ombreggiato da quel suo gran nasone che pare un torracchione per così. Vien dal contato, ebbene, che vuol dire? Basta con queste ubbie rette piccine. Mentre come un albero fiorito in piazza dei signori a fronte fronte muore amici forse il nome apportano dalle convalli limpide e fonte. vuole lui. Dio, amore, amore, quanto dolore.